Salve a tutti, questa è Radio Big World, io sono Jasmine e questa è la prima puntata di Curiosità Animate, dove cercherò di analizzare il retroscena dei più famosi film animati, e partendo con la Disney. Iniziamo partendo dal primo lungometraggio prodotto dalla Disney, che è stato trasmesso e distribuito nel 1937, che si chiama Biancaneve e Sette Nani. È basato sull'omonima fiaba dei fratelli Grimm, Biancaneve, ed era partito come un progetto molto ambizioso, dato che la Disney era sempre stata abituata a fare piccoli cortometraggi, come per esempio Silly Symphonies o Mickey Mouse. Perciò, già dall'inizio, per la sua trama articolata e per i personaggi che dovevano essere più caratterizzati, si è rivelata una sfida e anche un grande dispendio di soldi. Disney infatti decise di assumere un insegnante di anatomia artistica che potesse impartire delle lezioni agli animatori, che fino ad allora erano abituati a realizzare solo personaggi caricaturali e non realistici. La realizzazione di Biancaneve richiese subito quindi il massimo impegno anche per l'adattamento della trama. Infatti le fiabe dei fratelli Grimm non erano fruibili per tutte le età, e quindi lo studio ha deciso di creare e di adattare la storia in un modo molto più semplice e semplificato. Quindi hanno deciso di optare per un equilibrio fra momenti di tensione fra protagonista e antagonista e le gag supportate dai personaggi come i sette nani. Questo però è andato a discapito del personaggio stesso di Biancaneve, che essendo una principessa soggiogata alle perfidie della madrina che era gelosa della sua bellezza, non ha permesso di essere un personaggio molto carismatico. Al contrario, come poi le successive principesse Disney, sarà un personaggio che subisce più che agire e quindi sarà costretta a scappare e incontrare i personaggi come i sette nani, che Disney voleva rendere il fulcro della storia, anche nella caratterizzazione. Questa trama semplificata è stato il punto di forza che ha permesso di rendere il film molto più iconico di quello che poteva diventare. E quindi anche la tecnica che è stata usata e il design hanno permesso di poter arricchire una trama non molto ricca e avvincente. Infatti il prodotto ha avuto subito un grande successo sin dalle sue prime trasposizioni e sono state impiegate delle tecniche innovative per l'animazione di allora, come per esempio il rotoscopio, che può essere definito una grande tavola luminosa dove gli animatori ricalcavano le pellicole per poter ricreare un'animazione più realistica e poi successivamente sarebbe stata resa più cartoon. Questo classico, che è stato diretto da David Hand, ha visto anche la partecipazione di molti altri famosi animatori che successivamente nell'età d'oro della Disney, che sarà dagli anni 40 fino agli anni 70, porteranno molti altri famosi classici al cinema. E questi animatori erano per esempio Emil Kohl e Eric Larson. Disney con questo lungometraggio è riuscito a diventare uno dei maggiori punti di riferimento per il mondo dell'intrattenimento, anche hollywoodiano, e benché all'inizio fosse stato un film molto rischioso e che poteva sicuramente portare al fallimento l'intero studio, è diventato subito un pilastro dell'animazione. Il design di Biancaneve era ispirato a Betty Boop e anche a una famosa attrice degli anni 30 che era Ginger Rogers, mentre la regina cattiva è ispirata a un'altra attrice che era Joan Crawford. Entrambe queste attrici erano molto famose ed iconiche per gli anni 30, quindi il grande successo del lungometraggio è stato anche dovuto al design, che era subito interessante e accattivante, e anche il giusto equilibrio fra personaggi molto caricaturali, come per esempio i Sette Nani, e personaggi più realistici come era Biancaneve o il Principe. Beh, grazie per avermi ascoltato. Questa era Radio Big World, ma io sono Jasmine e arrivederci al prossimo cartone animato.